Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata. Oggi parleremo di un tema, il vino, che sicuramente appassiona molti appassionati, ma non solo, ma credo che appassioni un po' tutti, esclusi gli astemi ovviamente, però anche gli astemi dovrebbero essere interessati, perché il vino sicuramente nella nostra bilancia commerciale è una voce molto importante per la nostra economia, quindi un tema che dovrebbe veramente interessare tutti, sapere come sarà l'annata 2014 e soprattutto cosa porterà nelle casse appunto commerciali di un'Italia che sicuramente ha bisogno, ha sempre più bisogno del vino per poter esportare. Bene, le notizie non sono buonissime che sono arrivate in queste settimane, ma pare che con il sole di settembre e magari anche qualche 15 giorni di ottobre forse qualcosa possa cambiare, anche se in molte aree dell'Italia, come vedremo, insomma, la vendemmia è compromessa. Avremo meno quantità e forse questo potrebbe essere anche un bene, ma come sarà la qualità? Sicuramente non potremo parlare di annata del secolo come ogni anno qualcuno usciva con questa affermazione, ma cominciamo questo viaggio dal presidente degli Asso Enologi, nonché consulente di tante aziende in giro per l'Italia, Riccardo Cottarella. Buongiorno Cottarella. Ciao Davide. Allora, cosa ci dice? Vendemmia 2014? Come la vedi? Ma sto pensando da che parte farmi per non dare una visione che poi più o meno è quella reale. È stata un'annata caratterizzata da un andamento stagionale unico, più che raro, quantomeno a memoria di uomo vivente. Non abbiamo avuto l'inverno e questo, guarda, è negativo tanto quanto non aver avuto l'estate. No? Certo. Abbiamo avuto un'estate che, chiamarla autunnale, forse è troppo buono, e quindi la pianta e tutti i vegetali vivono la stagione molto più degli animali, che si proteggono e quindi subiscono l'influenza diretta, e la vite è tra le più sensibili, ovviamente ne porta le conseguenze. Non parliamo di cifre, di millimetri di pioggia piovuti, di temperature basse, perché sono veramente dei record negativi. In tutto questo non bisogna neanche fare un'analisi, diciamo, tragica, o quantomeno non tutta l'Italia è compromessa. Ci sono delle zone, delle uve, dei viticoltori, no? Che sicuramente ne escono compromessi, come sono altri che ne escono in maniera così mediocre, altri ne escono bene. E questo è un discorso che ho voluto non farlo, ma alla fine ci garantisce un concetto che secondo noi è sacrosanto, vale a dire la meritocrazia delle uve, dei territori, ma soprattutto degli uomini, cioè di coloro che sono destinati alla coltivazione della vite. Ma dove questa viene fatta con un principio culturale e scientifico, allora se ne vedono le differenze in questi anni brutti. E laddove viene fatto così alla viva il parroco, la differenza è sostanziale. Bene, e ti ringrazio perché hai fatto un quadro, devo dire, molto onesto della realtà, perché insomma quest'anno raccontare delle favole sarebbe veramente... Non è il caso. E quindi bene, grazie Riccardo di questo quadro, diciamo, introduttivo che hai fatto, ed era giusto che lo facesse il presidente dell'Asso Enologi. Ma io vado subito da un produttore che per primo qualche settimana fa ha detto annata 2014 l'amarone per la mia azienda Bertani Domains non ci sarà. È così, Emilio Pedron? Sì, buongiorno Paolini, senz'altro la nostra è stata una scelta prima di tutto aziendale. L'amarone classico Bertani viene fatto da sempre mettendo le uve a riposo su gratizi in canne di bambù in ambienti arieggiati naturalmente. Ecco, questo presuppone avere dei grappoli molto sani, molto spargoli, degli acini integri, e da subito abbiamo capito che quest'anno questo non era possibile. Questa è stata una scelta, ripeto, meditata, pensata, costosa, ma soprattutto coerente con quello che è il nostro stile, il modo di fare. L'amarone classico Bertani è un vino che da quando è nato nel 58 non ha mai cambiato né bottiglia né etichetta, stile di vino e modo di essere fatto il vino. Per questo chiamiamo l'appassimento inteso normalmente messa a riposo delle uve. Noi lasciamo riposare le uve su questi graticci per 120 giorni. Con questo capiamo benissimo che è una scelta, e ripeto che è una scelta aziendale, e quindi ognuno poi deve agire secondo quello che si sente, la propria anche professionalità. Credo che Cottarella abbia detto bene, quest'anno, mai come quest'anno, la qualità o la salvataggio dell'annata è affidata alla capacità delle persone oltre che di tutto il resto. Bene, voglio ricordare chi volesse intervenire 800 24 00 24 oppure per SMS 349 238 6666. Senta, volevo dirle questo, secondo lei quindi meglio rinunciare a un'annata che abbassare la qualità? Assolutamente sì, nel caso della Amarone. L'Amarone è un vino di scelta, non è un vino, cioè l'uva che non servirà per Amarone servirà a fare dell'ottimo Valpolicella, per cui credo che sia veramente saggio rinunciare a un Amarone mediocre per avere un Valpolicella migliore. Cioè non è come in certe zone, in certi vitigni, in certe denominazioni dove perdendo e non facendo un vino si perde la produzione per intero. No, l'Amarone è un'uva, è un vino che si fa con la scelta delle uve, per cui non se rinunciando a questa scelta comunque c'è una ricaduta positiva e ancora economicamente valida, facendo del bombo al Valpolicella. Senta Pedrone, e lei è l'unico che è uscito dicendo in anticipo questa cosa del 2014. Non è che molti pensino magari che con diciamo il vino in cantina si possano risolvere le cose? Ma indubbiamente noi dobbiamo sempre pensare che rinunciare a un'annata, soprattutto di un Amarone, che è un vino che ha un grande successo economico, quindi ha un costo e un prezzo sul mercato, è un costo economico di grande rilevanza. E quindi ognuno spera negli ultimi giorni di settembre, spera nei primi giorni di ottobre, spera nella propria capacità di aver tenuto le uve migliori delle altre, e spera molto, come nel caso dell'Amarone, in quello che è l'appassimento più tecnologico, affidato a questi fruttai dove si controlla l'umidità, dove c'è un arricchimento forzato e dove le cose sono in qualche maniera rimediabili. Tutte cose perfettamente legittime, tutte cose che uno può fare, che uno deve sentirsi secondo la proprio stile, il modo di fare, di poterle fare o meno. La nostra, ripeto, è stata una scelta molto aziendale, e soprattutto riferita al modo di fare, al modo di essere libertà. Pare che sia la più scarsa dal 1950 addirittura. Ricordavo prima che il vino è molto importante per la nostra economia, soprattutto per la nostra bilancia commerciale, quindi bisogna guardarlo con molta attenzione. Pericolo della vendemmia 2014, ma io spero che non sia quello che vado dicendo, che non si torni a delle pratiche come in passato che hanno praticamente rovinato l'immagine del nostro vino. Ma ora continuiamo questo viaggio nei territori principali di produzione di vino. Ma ricordo ancora 800 24 00 24 se c'è qualche produttore che vuole intervenire per raccontare magari del suo territorio, oppure se ci sono dei radioascoltatori che vogliono dire la loro. SMS 349-238-6666. Bene, andiamo nel Colio, appunto, che è una delle aree evocate della nostra viticoltura italiana, e andiamo a parlarne con Roberto Princic, che è il presidente del Consorzio del Colio. Allora, la prima cosa che dico a Princic è questo, che io oggi voglio ricordare con molto piacere che in questi giorni compie 100 anni un grandissimo produttore, appunto, di quell'area, Livio Felluga, a cui faccio tantissimi auguri, e credo che molti lo riconoscono come uno dei più grandi produttori italiani. 100 anni, quindi tagliare il nastro dei 100 anni è un fatto molto importante, credo. Princis, allora ci dà un po' così lo specchio del suo territorio alla luce, appunto, di quello che sta succedendo e di quello che è successo. Sì, intanto buongiorno a tutti. Diciamo che questa è un'annata molto particolare, sicuramente, diversa da tante altre, diversa dalle ultime due che abbiamo appena, dalla 2012 e dalla 2013, un'annata sicuramente molto più piovosa, più fredda, che comunque, insomma, ha delle sue caratteristiche, ha delle sue diversità, e in queste diversità si possono anche cogliere delle cose piuttosto interessanti, in fin dei conti. Ecco, e quindi lei dice, insomma, non è tutto, cioè non si butta il vaso col bambino, insomma, e questo è il punto. Ma io voglio sentire un radioascoltatore, Cristian dalla provincia di Pisa. Buongiorno Cristian. Pronto, buongiorno. Prego. No, io sono un piccolo produttore della provincia di Pisa, zona Monte Scudaio. L'azienda si chiama Tenuta la Macchia, è veramente una nicchia di 2,5 ettari. Abbiamo come varietà sia del Sangiovese che del Cabernet Sauvignon che del Sauvignon Blanc. Abbiamo avuto una cosa per quanto riguarda le riese, perché siamo un 20% in meno, abbiamo fatto un'ottima selezione in vigna. Però ad oggi siamo molto contenti perché abbiamo dell'uva sana, pur raccogliendo un po' di meno, però qualitativamente siamo a buoni livelli. Bene, io la ringrazio di una voce positiva, perché è importante, se ci sono altre voci positive io le raccolgo molto volentieri. Ma ora andiamo anche in Sicilia, dove a quanto si legge, diciamo che la produzione quest'anno è meno 30%, e lo chiediamo ad Alessio Planeta qual è la situazione nel suo territorio. Buongiorno Alessio. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio di averci chiamato, perché mi dai la possibilità di raccontare qualcosa sulla vendemmia in Sicilia, sottovoce, perché noi abbiamo un enorme rispetto per i colleghi produttori di tutta Italia, però devo dire che la Sicilia racconta una vendemmia che invece è una vendemmia particolarmente bella. Vero è che c'è meno uva, ma l'anno scorso la Sicilia aveva fatto tanta uva, ma grazie a un'estate fresca e asciutta, la Sicilia ha fatto, noi abbiamo fatto già circa il 70% della vendemmia, quella è una zona sud occidentale, quindi Sambuca e Menfi abbiamo quasi finito, siamo più che contenti, e dico, forse i testimoni migliori possono essere i vacanzieri che sono venuti in Sicilia e hanno avuto un'estate fresca come non capitava da anni. A Oriente ancora non abbiamo iniziato, iniziamo la settimana prossima, però la Sicilia quest'anno fa dei vini secondo me decisamente importanti, o almeno quelli fatti fino ad ora. Alle volte si dimentica che il clima in Italia, l'Italia stretta e lunga, può avere delle differenze macroscopiche tra una zona e l'altra. C'è meno uva perché ogni annata è diversa dall'altra, ci sono state delle piogge primaverili che hanno in parte danneggiato una certa viticoltura nella parte occidentale della Sicilia, però insomma la qualità dei bianchi per esempio è assolutamente buona, straordinaria. Sì. Bene, ricordo ancora 800 24 00 24. Ora andiamo in Abruzzo, andiamo da Tonino Verna, presidente del consorzio sui vini dell'Abruzzo, nonché presidente delle cantine Tollo. Buongiorno Tonino. Buongiorno a lei. Allora, com'è la situazione in Abruzzo? Situazione in Abruzzo, diciamo che ad oggi è buona. Abbiamo avuto una stagione piovosa con qualche problema anche fitosanitario, però diciamo che le uve bianche che già abbiamo vendemmiato e già sono in cantina, dallo Chardonnay al Pecorino, e hanno giunto alla maturazione giusta e con un livello di sanità ottimo, quindi buono. Oggi diciamo che le previsioni ci danno qualche giorno di bel tempo, e quindi per le uve rosse aspettiamo a dire come sarà. Per quanto riguarda la quantità, diciamo che abbiamo un calo di produzione in ragione forse del 10%, a causa, come dicevo prima, delle temperature un po' alterate nel periodo dell'allegagione, quindi abbiamo avuto qualche grappolo in meno, però i grappoli sono abbastanza spargoli, quindi anche se madre natura non è stata molto favorevole con i contadini e con le vigne, però diciamo che con qualche impegno di più da parte dei produttori per i trattamenti abbiamo delle buone delle buone premesse anche per i vini rossi. Beh, mi arriva un messaggio da un radioascoltatore che dice: in Borgogna e in generale tutta la zona vinicola, io penso della Francia, sembra una buona annata, peccato per noi. Peccato per noi no, perché sai, non è che sicuramente avranno dei riflessi sulla nostra posizione, perché quanto ascoltiamo non è così disastrosa come fino ad oggi è stata dipinta, soprattutto dal punto di vista della qualità. Ma voglio tornare nel Coglio per capire da Roberto Princic se non ha parlato di quantità, se la quantità nel suo territorio è molto, molto minore degli anni precedenti, oppure se si è mantenuta stabile. Roberto? Per quanto riguarda la quantità, io potrei dire che è abbastanza stabile rispetto all'anno scorso. Devo aggiungere che effettivamente sì, l'annata è diversa, però sicuramente territori importanti, territori vocati ne vengono fuori. Le nostre colline comunque reggono bene, diciamo, questa quantità immane di pioggia che poi è venuta giù nell'ultimo mese, e quindi devo dire che un po' in base ai primi dati che mi ha raccolto, un po' in base a quello che vedo anche nella mia realtà, nella mia azienda, insomma, come quantitativo addirittura qualcosetta forse in più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era siccitosa, quest'anno è piovosa, c'è sicuramente da fare tanto lavoro, tanta selezione, questo sì, bisogna comunque selezionare le uve, cercare di pulirle e quindi portare a casa delle uve più corrette possibile. E anche come dati analitici, i primi dati analitici, diciamo, sui vostri, insomma, sono piuttosto confortevoli. Sicuramente avremo meno gradazioni alcoliche, quindi un vino un po' più leggeri, con una buona acidità, e quindi vini anche attuali in un certo senso, come caratteristiche, come tipologie. Bene, sentiamo Giuseppe D'Avellino, radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Salve, buongiorno. Volevo fare il mio contributo. Io per il laboratorio di Francia accreditato nella zona di Avellino, quindi qui abbiamo vini pregiati, Aglianico, Fiano, Greco, inutile farne la pubblicità. Quello che vedo, perché come amo dire, insomma, ho i piedi nel fango e le mani nei guanti di lattice, è che c'è sempre una differenza tra un produttore di vino che punta alla commercializzazione come obiettivo principale, quindi alla massimizzazione del profitto, e quello che invece punta al rispetto, se vogliamo, di una certa identità locale, di una certa identità del vino, che poi è quello che io, come amante del vino, insomma, vorrei che il vino mi raccontasse quando lo bevo. Ritornando alla nostra annata, il polso della situazione, almeno nella mia zona, è quello per cui sì, è vero, tutti quanti si lamentano di un'annata molto ridotta, però ci sono produttori di antica data che hanno ereditato dai nonni la loro capacità di leggere la vigna, che mi hanno richiamato alla memoria un'annata particolare, che è stata quella del 2001 per l'Aglianico, un'annata difficile perché ci furono delle gelate improvvise in primavera, ci fu un'estate particolarmente piovosa nella quale chi è stato attento alla vigna ha fatto la differenza tra un vino che è maturato in maniera naturale, nel senso che la vigna ha subito una sorta di potatura naturale, se mi si consente il termine, è ripartita la fase vegetativa in una fase successiva, quindi riducendo la produzione dei grappoli produttivi e rendendo quel vino adatto ad una conservazione, ad una strutturazione naturale, senza nessun tipo di intervento particolare. Questo lo dico perché personalmente ho ancora del 2001 fatto da me in maniera del tutto casalinga, quindi senza nessun tipo di accortezza, ed è ancora bevibile. Quello che dico è che annate come queste fanno la differenza tra un produttore di vino che ha necessità di vendere un'etichetta ed un produttore di vino che invece lotta quotidianamente parlando con la sua vigna, perché ne conosco di alcuni che veramente fanno questo e si scambiano informazioni molto importanti, che almeno sul mio fronte personale, quello di chi fa le analisi, di chi produce certificati per l'estero, e noi come laboratorio Gamma siamo uno dei pochi in Campania che offre questo servizio, vediamo sempre con molta attenzione, insomma, grazie. Il territorio nostro è pieno di piccole cantine. Grazie Giuseppe. Voglio chiedere a Tonino Verna se è d'accordo con l'intervento di questo, diciamo, mi sembra che sia un analista di vini. Tonino. Sicuramente quest'anno l'imprenditore agricolo che lo fa con passione e con professionalità fa la differenza rispetto all'imprenditore così di risulta. Sicuramente, come diceva, ogni annata è diversa dalle altre, quest'anno è un'annata particolare, però voglio ricordare che la disposizione orografica della regione Abruzzo, con le sue colline, con da un lato la Maiella che ci protegge da alcune intemperie, dall'altro il Conero che ci blocca i temporali che arrivano dal nord, io penso che la regione Abruzzo possa e darà sicuramente un prodotto anche quest'anno con qualche decimale di grado alcolico in meno, però la Beh. Qualità con la professionalità degli imprenditori agricoli la porteremo a casa con grande soddisfazione sia dei produttori e sicuramente anche dei consumatori che si troveranno un vino buona e ottima qualità. Grazie Tonino, ma dico un vantaggio perché tutti chiedono vini meno alcolici, quindi magari questa vendemmia porterà proprio questo. Ma sentiamo Aldo dalla provincia di Pavia, un radioascoltatore. Buongiorno Aldo. Sì, buongiorno, mi chiamo Aldo Venco e rappresento gli enologi della Lombardia perché sono il presidente assoenologi della sezione lombarda. Prego. E cosa dobbiamo dire? L'annata è sicuramente un'annata che resterà nella nostra storia perché non ne abbiamo avute con una decorrenza così particolare. Posso ricordare il 92 o il 2002 che sono state particolarmente piovose, ma che non hanno avuto questo decorso. Quello che voglio dire è comunque che in un'annata come questa si vedono soprattutto i bravi operatori, prima in vigneto, per cui i bravi viticoltori, e poi in cantina, i bravi enologi, cioè quelli che sono riusciti a produrre comunque, nonostante tutte le intemperie, tutto quello che è successo in quest'anno in cui ci siamo quasi dimenticati del sole, ad ottenere delle uve sane, producendone meno sicuramente, ma sane. E poi in cantina, dove ci stiamo scontrando, adesso io chiamo dall'Oltrepò Pavese, dove abbiamo appena finito la vendemmia dei Pinot, e dove ci stiamo scontrando con delle uve che hanno un inferior contenuto zuccherino rispetto agli anni passati e un maggior contenuto acido, e alle quali dovremo comunque operare in modo da ottenere dei buoni vini, che comunque si stanno manifestando, stanno presentandosi molto bene, con dei profumi molto marcati, intensi, caratteristici. E stiamo cominciando la vendemmia delle uve bianche, dei Riesling, che stanno dando, spero, le stesse caratteristiche. Bene Aldo, io la interrompo, cioè, lei ci ha dato anche lei il quadro dell'Oltrepò e va benissimo, ma io voglio introdurre invece un SMS, secondo me, di un radioascoltatore che io credo che sia molto centrato. Ma allora non c'è nessun problema, chiede, io sento odore di balle. Questo è un SMS che mi è arrivato, io lo rigiro per primo a un personaggio, un enologo importante che dice sempre pane pane e guarda caso vino al vino. Buongiorno Donato Lanati. Ciao Davide, buongiorno a chi ci ascolta. Bellissima questa trasmissione, interessantissima. Io devo dire che i concetti di quest'anno devono essere, per fare una qualità accettabile, di rodamento, cernita e conoscenza, perché ci sono dei parametri al di sotto dei quali non c'è una qualità elevata. E poi soprattutto bisogna appellarsi al valore etico del produttore che rispetta il consumatore, e perché il produttore è veramente quello che ha grande sensibilità, conduce bene il suo vigneto, non fa salotti e conduce poi anche bene la cantina, anche qualcosa tira fuori da quest'anno. Però non si può generalizzare in Italia, come è stato detto prima, perché io ho visto un grande impegno, specialmente nella difesa fitosanitaria al nord, con magari anche aziende biologiche che hanno dovuto intervenire ogni 4 giorni con rame per fermare attacchi di peronospora e altre cose. Oppure ho visto anche dei vigneti stupendi di varietà tardive, ripeto tardive, sia nelle Langhe come nel Nebbiolo, oppure arandazzo come sull'Etna e nel Mascalese, dove veramente la vendemmia è bellissima, così come c'è stata Pantelleria. In altre zone sono state meno fortunate, quindi qui è il valore dell'ambiente, tutto del territorio, quindi ecco. Clima, terreno, questo è l'ambiente importantissimo, poi il produttore. Però io ritorno sul fatto di dire, per esempio in quest'anno ho visto alcuni venditori di prodotti enologici che avevano le ricette risolutive orizzontali, come degli apprendisti stregoni che dicevano metti questo, questo, questo, questo. Allora io direi una cosa, che noi vogliamo sempre dare un maggior valore di spirito a questa grande bevanda, però ci sono delle conoscenze, prima di aggiungere delle cose che comunque il consumatore non vorrebbe vedere aggiunte in un prodotto che poi dovrà ingerire, che gli accenderà e spegnerà dei geni mentre lo beve, di stare attenti a che cosa si aggiunge, perché magari è necessario o magari proprio no. Quindi ritorno a sottolineare che la conoscenza è determinata. Grazie, torno adesso a Planeta proprio per un minuto veloce, perché Planeta è un marchio molto distribuito, molto venduto all'estero. Volevo chiedere se secondo lui influenzano le informazioni che arrivano appunto dell'Italia di una vendemmia più riduttiva di quantità, insomma di problemi. Guarda, intanto mi permetto di ripetere la riflessione di prima. Ogni tanto in Italia tendiamo a fare decidere se una data è buona o brutta facendo il rating di alcune zone più blasonate dell'Italia. A me dispiacerebbe molto, mi fa piacere sentire la Nati dirlo, se passa il messaggio che la Sicilia sta facendo una vendemmia non buona, la Sicilia sta facendo una vendemmia straordinaria fino ad oggi, con tutti gli scongiuri del caso, quindi non ci piace se poi si viene, come dire, passa il messaggio. No, ma guarda che la Nati sulla Sicilia ha detto vendemmia splendida. Appunto, dico, sì, mi fa piacere che l'abbia detto lui, che lavora anche bene in Sicilia e in tutta Italia. Quindi c'è appunto questo pericolo che alcune zone determinano magari un'idea dell'andata complessiva. Certamente alla lunga messaggio passa, come passò nel 2002, che l'annata non è facile, quindi magari soprattutto su certe denominazioni si possa saltare l'annata. Bene. Ma ancora credo che è presto per dirlo. Bene, grazie Alessio Planeta. Ora vado in Piemonte, l'Anati ha parlato appunto delle langhe indirettamente, vado da Alessandro Ceretto. Buongiorno Alessandro. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Ecco, volevo sapere da te, che stai facendo una riconversione importante su, diciamo, biologica dei tuoi terreni, quali sono i problemi oggi? Ma l'analisi dell'annata, credo che noi fino ad oggi abbiamo raggiunto e siamo riusciti a mantenere un'ottima qualità. Credo che quest'annata passerà per noi alla storia per essere l'annata più cara a livello di gestione agricola, perché appunto essendo in biologico ogni pioggia siamo dovuti intervenire con altri trattamenti, e oggi credo che siamo a due volte i trattamenti dell'anno scorso. Però la qualità c'è, i nebbioli sono per ora fantastici, l'unica cosa che ha danneggiato una parte del barolo sono state due grandinate che però per nostra fortuna noi ci hanno solo sfiorate. Perciò questa annata io credo che sia proprio quella definitiva che mi convince a sposare e ad abbandonare completamente la chimica per poter fare appunto dei vini senza residui, dei vini più sani, dire che si possono fare. Bene, grazie Alessandro Ceretto. Enrico dalla provincia di Trento, radioascoltatore, le do 30 secondi Enrico. Ok, io le volevo dire che è un'annata difficile qui da noi, io produco uve base spumante biologiche, però 280 mm fra luglio e agosto hanno inciso parecchio sulla qualità dell'uva, ecco, volevo dire questo. Bene. Donato Lanati, volevo tornare con te, anche se, come dicevo, ho un minuto, e appunto questo discorso dell'uva biologica rispetto all'altra in quest'annata. Ma guarda, io penso che dovrò convertirmi e passare da una enologia convenzionale a una vesticura biologica e biodinamica, perché intervenendo il meno possibile sia in vigneto che in cantina ci vogliono tante conoscenze, e la ricerca penso che sarà determinante per questo tipo di vini, e io sono sempre più vicino al consumatore che vuole avere trasparenza con il produttore. Permetti una battuta di quest'anno, sì. È stato detto meno calore, più pioggia. Io vedo benissimo le varietà tardive, c'è un piccolo problema, è la luce, abbiamo avuto anche meno luce, e le radiazioni luminose sono determinanti sia per fare dello zucchero, che ce n'è di meno, ma anche per fare il precursore degli aromi, che sono importantissimi per i baroli, i brunelli e i vitigni che poi daranno dei vini a lungo invecchiamento, quindi bisognerà valutarlo, le analisi servono per quello, non si può fare tutto con lo spirito, bisogna farlo anche con la conoscenza ed essere trasparenti e avere una buona qualità etica in questo in quest'annata, come ha detto Pedrona e gli altri, ognuno, ogni produttore sa quello che potrà dare al consumatore in quantità oppure rinunciare quest'anno. Quindi tu consigli vini da vendemmia tardiva per il 2014? In questo momento sì, in questo momento sì, anche perché hanno da giocarsi tutto questo mese e valutando comunque se hanno abbastanza, permettimi la parola, no, risoprenoidi che saranno poi i profumi tra 4 anni, 5 anni nei Baroni e nei Brunelli. Ebbene, prima di tornare al vino, voglio annunciare una cosa molto interessante, che oggi a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, c'è una festa del luppolo, ma non è tanto la festa, è quanto in questo centro, piccolo centro del modenese, si sta tentando di produrre il primo luppolo italiano per la produzione di birra artigianale, quindi credo che prima o poi sarà una birra tutta made in Italy. Ma torniamo al vino e andiamo in Franciacorta, andiamo dal presidente del consorzio del vino di Franciacorta, da Maurizio Zanella. Buongiorno Maurizio. Ciao Davide. Senti, leggo buongiorno a tutti. Leggo un SMS che è interessante. Cosa servono i disciplinari di produzione se poi in cantina gli enologi fanno interventi sostanziali? Chiede Agostino. Tu cosa ne pensi, che in quest'annata ci dovranno essere degli interventi sostanziali? Ma dipende dalle varie situazioni, come abbiamo sentito, ci sono situazioni completamente diverse da una regione all'altra. Io sono un po' fuori dal coro e me ne scuso, perché non voglio fare il bastian contrario o peggio ancora il maestrino, però tirare bilanci su una vendemmia quando la stessa non è conclusa sul piano qualitativo mi sembra molto azzardato. Possiamo parlare di quantità e possiamo parlare di stato sanitario delle uve, e evidentemente per quanto riguarda la Franciacorta il bilancio in termini di quantità è abbastanza positivo, in linea con gli altri anni c'era una quantità maggiore di uva, che chi opera in maniera civile e con cognizione evidentemente però ha dovuto scartare per il marciume presente su alcune varietà. Mi riferisco soprattutto al pino bianco e al pino nero, che hanno avuto grandi difficoltà e quindi si è scartato moltissimo, e queste uve saranno presenti anche in quantità minori, mentre lo Chardonnay ha retto, e quindi credo che in termini qualitativi si è azzardato a fare delle ipotesi. Io ricordo molto bene la vendemmia del 2002 o del 96, che avevano non le stesse caratteristiche, perché questa è unica, perché mai abbiamo avuto queste precipitazioni, quantomeno nei soli 45 anni in cui faccio questo lavoro. Però ci si possono sfruttare delle sorprese anche sul piano qualitativo. Certo. E per cui parlare di qualità oggi mi sembra fuori luogo. Bene, e sentiamo Aldo dalla provincia di Bari, un radioascoltatore. Breve Aldo, per cortesia. Buongiorno, niente Davide, io volevo solo affermare che qui c'è stata una riduzione del 30% nella zona dove sto io. Che zona è? Provincia di Bari, Corato. Sì, ma la zona territoriale, diciamo, per il vino? Ospedale, Torre Vento, non so se ha sentito. Sì, ma sì, d'accordo. Ma quale uve ci sono? Bombino Nero, Castel del Monte. Ho capito. Diciamo. Bene, sì, c'è una marcata riduzione del 30%. Quindi abbastanza seria. Sì, ora sì, certo. Sì, sì. Dalla Puglia andiamo in Toscana, andiamo nella zona del Chianti, andiamo da Michele Zonine dell'azienda Piandalbola, ma anche presidente del Chianti Classico Company. Buongiorno Zonin. Buongiorno Davide, buongiorno ai suoi telescoltatori. Come ve la passate nel Chianti? Ce la passiamo, che ancora attendiamo, perché è ancora un po' presto anche qui per giudicare. Noi dobbiamo ancora iniziare con i bianchi, con lo Chardonnay. Inizieremo a fine mese nelle parti più basse della nostra azienda, sui 400-450 metri, per cui per arrivare poi a fine ottobre. Quindi per adesso l'unica cosa che posso dire sulle quantità, per quanto ci riguarda, possiamo ritenerci stabili sull'anno scorso. Sulla qualità è un po' presto, anche se la vedo un po' lunga la maturazione quest'anno rispetto sicuramente all'anno scorso e agli anni precedenti. Però obiettivamente mi associo anche a quello che diceva il dottor Zanella, adesso è davvero prematuro, soprattutto in Chianti, dare un giudizio sulla qualità della vendemmia. Di quello che sarà poi il vino in bottiglia. Sentiamo Paolo dalla provincia di Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Buongiorno, salve a tutti. Volevo solo dire questo. Io ho fatto agraria, di vino intendo non ai massimi sistemi, ma comunque mediamente. Mi piacciono molto gli ultimi interventi che parlano, diciamo, seriamente e sinceramente di quello che sarà poi l'annata, del fatto che non si possa attualmente ancora stabilire un rapporto qualitativo di come è andata la vigna quest'anno. E secondo me è importantissimo che l'Italia faccia vedere all'estero di essere sincera, nel senso che io ho girato tanto il mondo e il produttore italiano è visto come esperto nella produzione di vino, e io da un esperto di qualsiasi settore mi aspetto sempre, diciamo, la sincerità e la spiegazione di quello che sta succedendo. Quindi anche se dovesse poi andare male questa annata, se l'Italia farà vedere che spiega il perché e il per come, e magari fa valere invece la qualità di quelle piccole produzioni che invece stanno andando bene, ne otterrà comunque in immagine, per cui non verrà lesa l'immagine dell'Italia all'estero. Se invece vogliamo difendere a tutti i costi un'annata che potrebbe anche essere andata male, secondo me facciamo la figura, come spesso accade per l'Italia, di quelli che non sono molto sinceri con l'estero, insomma. Zanella, mi sembra che questo intervento sia molto intrigante. Ma è reale, è giusto, è corretto, è inutile suonare sempre comunque la tromba di una vendemmia straordinaria. Ripeto, non voglio essere polemico, ma soprattutto a vendemmia in corso, cioè come è possibile giudicare la qualità di una vendemmia con le uve ancora attaccate alla pianta? Mi sembra molto azzardato. Io penso si possa parlare di quantità e di stato sanitario. Ma Zonina, anche lei è d'accordo con l'intervento di questo giovane laureato in agraria? Io assolutamente. Io credo che poi sia l'onestà che ripaga, ed è l'onestà anche nel comunicare lo stato delle nostre uve e anche poi quello che si mette in bottiglia. Cioè, se l'annata è così, e non è di certo colpa nostra, perché se il cielo la manda è così, cioè bisogna avere anche l'onestà poi di mettere in bottiglia un prodotto buono. E se l'uva non è sana e il prodotto non viene bene, bisogna anche avere il coraggio, e i bilanci magari un po' ne soffrono, di non mettere in bottiglia un determinato vino per una determinata annata. Bene, devo dire che c'è un altro, devo dire che oggi gli SMS sono molto puntuali, perché c'è un SMS di Loris che dice: oh, finalmente si è udita la parola marciume. Bene, caro Loris, sicuramente qua e là è apparsa, ma devo dire che non ho trovato grandi trionfalismi, scusi qualche eccezione, perché è giusto non fare trionfalismi, neppure, come si diceva prima, ancora non è tutto finito di fare il diciamo, gridare è tutto sbagliato, è tutto andato a male. Quindi secondo me bisogna aspettare, perché il 2014 in bottiglia non c'è domani mattina. Quindi Maurizio Zanella, hai parlato prima di uve, hai detto Chardonnay tiene bene in Franciacorta, quindi sarete anche contenti voi produttori di Franciacorta, che per voi puntate molto o quasi tutto sullo Chardonnay. Ci puntiamo molto, e appunto stavo dicendo che ci possono essere delle sorprese in positivo, perché se ricordiamo la 96 o la 2002, ripeto, molto diverse, hanno dato dei vini straordinari. Quindi è assolutamente prematuro dare un giudizio, mentre di sicuro già si può dire, per lo stato sanitario, mi ripeto, compromesso, di Pinot Nero e Pinot Bianco, che dovendo lavorare con quei due vitigni saremmo in grandissime difficoltà, sia sul piano quantitativo che probabilmente su quello qualitativo. Quindi io credo che bisogna aspettare ancora 3 o 4 mesi per dare un giudizio definitivo dopo le fermentazioni alcoliche, quelle pratiche, e dare un giudizio compiuto sulla qualità di un'annata, che può riservare delle sorprese sia in negativo ma anche in positivo. Bene. Grazie a Maurizio Zanella e a Michele Zonin. Allora devo dire che aspettiamo bere il 2014, perché per molti vini lo berremo fra 3 o 4 anni, quindi sicuramente chissà cosa succederà in cantina. L'importante, come diceva un SMS che c'è stato scritto, che non ci siano interventi sostanziali, appunto, in cantina. Con questo sostanziali lo metto tra virgolette, ed è evidente che non siano interventi magari consoni o siano interventi troppo impetuosi che vanno a influire sulla qualità e sulla sanità di quei vini. Speriamo che sia così. Io diciamo chiudo questo giro tra il vino italiano, che lo ricordo, il vino è troppo importante per la nostra economia, specialmente in questo momento. Ringrazio Anita Panizza, Giorgio De Luca in redazione e Carmelo Arauricella in regia. Quindi vi do appuntamento alla prossima settimana.